Salve a tutte e a tutti e ben sintonizzati su Radio Città Fucico. State ascoltando 42 La Risposta, in onda dal Moustache di Via Mascarella, Bologna, in occasione del festival Billboard Bull. E proprio in questa circostanza abbiamo raggiunto Lorenzo Cimmino, editore di Nuova S1, e Giampaolo Parrilla, autore, insieme a Vincenzo Beccia, del wordless novel L'eredità di Babele, edito proprio dalla casa editrice Nuova S1. Benvenuti a 42! Grazie. Grazie mille. Grazie. L'idea di trasmettere dal Moustache ci è venuta perché Giampaolo Parrilla e Vincenzo Beccia hanno allestito proprio in questo luogo e in occasione appunto del Billboard Bull una mostra con le tavole originali dell'eredità di Babele, mostra che sarà qui al Moustache fino all'8 dicembre. Allora, la prima domanda è per Giampaolo. L'eredità di Babele è il risultato finale del laboratorio interculturale Esodi della compagnia Teatro dell'Argine. Ce ne puoi parlare? Grazie a tutti. Il progetto si nasce da un'idea di Lorenzo Cimmino con appunto la prospettiva di portare un fumettista, un disegnatore alle prove di una compagnia di teatrale interculturale. E questo è doppiamente funzionale perché in primo luogo porta il disegnatore fuori dal suo spazio di comfort e quindi fuori dalla sua stanza in cui sa di poter sbagliare, sa di poter commettere errori e di poterli in un certo senso cancellare. E quando invece si è su un teatro, sia da un certo punto di vista fuori dalle luci, ovvero per raccontarlo, infatti il primo anno di studio è stato un racconto, un diario proprio a fumetti pubblicato sul sito della casa editrice Nuova S1, la collana Il Girovago, e si è comunque a diretto contatto con gli attori stessi, che non soltanto guardano ma interagiscono con il lavoro e con i disegni stessi. Il progetto quindi è stato davvero molto interessante perché essendo su un palco a disegnare live e quindi con tutte le indecisioni del caso, sia da parte mia che da parte degli autori stessi, il disegno era un po' sempre in divenire, come se questa fluidità, che diciamo che a me è molto cara nei miei disegni, fosse anche un po' metafora di costruzione del disegno stesso in modo collettivo. E il graphic novel L'eredità di Babele nasce appunto come progetto conclusivo e abbiamo scelto di farlo essere un graphic novel senza parole perché volevamo proprio affidare soltanto i disegni e a questo senso un po' di lentezza del guardare, dello sguardo, un po' la stessa lentezza che si ha nell'ammirare gli arazzi oppure i cicli d'affreschi. È senza parole proprio per questo, perché la parola viene sostituita dallo sguardo e il silenzio diventa lingua comune a tutti. Giampaolo, l'eredità di Babele è incentrato sulla storia dell'umanità, dal crollo della mitica torre di Babele fino a un futuro distopico, in cui però è facile riconoscere molti elementi che caratterizzano il nostro presente. Sì, per la struttura di questo fumetto ci siamo ovviamente molto ispirati al reale. Abbiamo pensato a varie tipologie di strutture, in questo caso sociali, in cui la comunicazione da un primo momento, che in un primo momento partiva come comunicazione sicuramente ottimista, trasparente e vera, arrivasse tramite appunto il non ascolto e la prevaricazione a una distopia di governo. E quindi tramite la creazione di 5 torri più l'iconica Torre di Babele iniziale abbiamo cercato di analizzare 5 tipologie appunto di prevaricazione. C'è appunto una prevaricazione distopia di tipo economico, una di tipo religioso, una di tipo tecnocratico, e abbiamo deciso di raggrupparli in capitoli che in verità hanno tutti la stessa struttura e sono delle minime variazioni sul tema generale, che è dato da una costruzione iniziale di una torre, di una torre a una finale distruttivo con la torre stessa che crolla, proprio per dare l'idea di un ciclo continuo, qualcosa che e non ha fine finché non arriva il silenzio, finché non c'è il silenzio da parte di tutti. Leggendo questo wordless novel, la cosa che ha colpito molto noi di 42, che amiamo tantissimo le distopie, ve lo possiamo dire tranquillamente, è che i segni del nostro presente sono particolarmente evidenti, perché nei tempi che stiamo vivendo si percepisce proprio questa quasi crisi di fine secolo, pur non essendo alla fine di un secolo, come se tutto dovesse finire da un momento all'altro. E la Torre di Babele è un simbolo fortissimo di questa crisi culturale, civile che stiamo vivendo. Un'implosione di un'intera civiltà per colpa dell'uomo, cioè di se stessa, no? Questo è molto vero. Il crollo della torre è un qualche cosa di drammatico, anche a livello proprio esistenziale per l'uomo, perché come in quella biblica non ci si capisce più. Ma questo allo stesso tempo può essere un'opportunità per l'uomo di riempire quello spazio nuovo che si è creato, che prima non c'era, perché c'era una torre. Questo spazio nuovo si può riempire di qualcosa di meglio, forse? Domando. Vabbè, ce lo auguriamo tutti. Per chi non fosse esperto del genere, che cos'è un wordless novel? Un wordless novel è un libro a fumetti, un graphic novel a fumetti che non si serve di parole per veicolare una narrazione, ma solamente di immagini. E in questo senso è molto interessante perché toglie il medium parola dal fumetto e quindi diciamo concentra totalmente lo sguardo, la vista soltanto sui disegni stessi e sul ritmo dei disegni. Per me il fumetto è prima di tutto ritmo e quindi togliere le parole, che in un certo senso poi in questo progetto risultavano in eccesso, era per noi doppiamente funzionale. E poi d'altro canto penso che renda le cose e la narrazione sempre più leggera e in un certo senso evanescente. Leggera. Intanto, che idea di lanciarci un pezzo musicale? Facciamo una breve pausa a vostra scelta. Allora ci ascoltiamo un po' di musica in silenzio. Lorenzo, è stata una scelta coraggiosa quella di pubblicare un wordless novel. È stata una scelta coraggiosa, ma direi inevitabile. Inevitabile perché quello che è l'ambito di ricerca di me come responsabile della collana del Girovago è proprio quella di cercare di creare nuovi spazi di incontro. Di incontro in che senso? Incontro, cioè, ovvero offrire ai lettori un qualche cosa di diverso, un qualche cosa che non gli dia una risposta già fatta, costruita, già tagliata con l'accetta, ma che dia la possibilità alla persona appunto di avere, di entrare in contatto veramente con quello che sta leggendo, con quello che sta guardando. E per esempio, leggendo, io dico leggendo anche se non ci sono parole, però dico entrando in contatto con quelle che sono le pagine di Giampaolo, ma anche di Vincenzo Beccia, che è quello che si è occupato della cornice, tutte le volte che lo guardo ho la possibilità di illuminare le immagini che vedo di una nuova logica e di scoprire cose sempre nuove. Ed è proprio una scelta di dire lascio spazio al lettore di crearsi lui una sua storia in base a quella che è la sua sensibilità e in base a quello che magari gli è successo anche durante quella giornata. Quindi dargli uno spazio dove tutto non è già deciso, dove anche noi, come nell'eredità di Babele, proviamo a fare silenzio e a creare uno spazio altro per il lettore dove possa muoversi con agio anche all'interno di se stesso. Sembra una cosa un po' mistica, ma in realtà funziona, è una cosa molto pratica. Faccio un esempio. Nella mostra che abbiamo allestito, dove ci sono tutte le tavole di Vincenzo Beccia e di Giampaolo Parrilla, ogni tavola ha una piccola torcia per il quale lo spettatore che viene a vedere la mostra può accenderla e illuminarsi solo quello che gli interessa, quindi isolare il particolare e quindi in un modo, spero, credo, nuovo, entrare veramente in contatto, in comunicazione con qualcosa, perché il problema di Babele è proprio quello, cioè non c'è comunicazione, e perché la nostra ipotesi è che nella società di oggi non c'è più spazio e quindi proviamo a crearne uno nuovo. Giampaolo, ci parli delle tue scelte stilistiche, di come hai impostato la palette di colori, il tratto, tutto quello che ha poi reso questa un'opera importante. Sì, innanzitutto partendo sempre dal ritmo. Abbiamo analizzato con Lorenzo il fatto che, visto che volevamo incentrarci sulla serialità e la ripetitività degli stessi capitoli, abbiamo anche pensato di rendere ripetitive e totalmente uguali tutte le stesse vignette. Ogni vignetta quindi è molto molto piena, ma è anche molto molto scandita dalle altre due. È una sorta di ciclo triadico e abbiamo pensato che, come appunto in una triade c'è creazione, distruzione e ritorno all'inizio, anche in ogni singola tavola ci potesse essere questa cosa. E quindi molte tavole le vere azioni si sviluppano, nascono, crescono e muoiono in una tavola stessa. E dal punto di vista invece dei colori e della struttura cromatica, ogni capitolo ha una dominante. Abbiamo cercato di sintetizzare le emozioni, i tumos di questi protagonisti, che in verità non sono altro che burattini del sistema stesso, del sistema narrazione. Abbiamo pensato di caratterizzarli tramite dei colori che rappresentassero le loro emotività più profonde, e quindi banalmente associare a dei colori più violacei, più verdastri, una narrazione più di tipo distopico tecnocratico, o dei colori più grigi per una narrazione di tipo economico. Tutto questo perché, dal mio punto di vista, quello che banalmente cerco di rappresentare con i miei disegni è appunto l'associazione tra emotività e colore, che è una cosa che in verità hanno fatto un sacco di persone, però la trovo sempre molto interessante. E mi interessa molto la creazione di personaggi e di strutture di disegno partendo dai colori stessi. Quindi i colori sono la prima cosa che metto nelle tavole. In questo caso le tavole sono fatte con un fondo di acrilico e sopra con l'olio, che è un medium che a me piace molto perché mi permette di non asciugarsi mai e quindi di poterci tornare su più volte nel caso abbia da modificare varie cose o in questo caso ampliarle. Sleeplessly embracing, Butterflies and needles line my seamed up drawing, encased in case I need it. In my stomach, on my heart, chainmail, hunger of the pine, hunger of the pine. Sleeplessly embracing, yon yon tin to me, plenty more days in the sea, and so you finally use it. Bedding with me, you see, at night your heart wears night armor. Del Wordless Novel abbiamo il bianco e nero e poi si passa ai colori. Questa scelta è stata dettata da cosa? E ragionando sempre con Lorenzo, abbiamo trovato questa scelta molto necessaria, perché abbiamo deciso di usare come strumento narrativo l'idea di un libro dentro un libro, e quindi ci serviva essenzialmente una cornice che potesse introdurre il lettore alla storia, diciamo, più archetipica, in contatto e in unione con una dimensione più reale e quotidiana, in questo caso anche se ambientato in un futuro più distopico, però comunque vicino al nostro presente. L'elemento di contatto è appunto sempre l'assenza di parole, e in quel caso la sostituzione delle parole stesse con delle emoticon, che però sono rese sempre allo stesso tempo distrutte. E invece ci è sembrato interessante quasi rendere in bianco e nero il mondo reale e rendere invece a colori il mondo della leggenda, delle emotività eroiche, e quindi ci piaceva questo scarto, questo cortocircuito. Lorenzo, Nuova S1 ha lanciato questa collana, Il Girovago. Qual è la scelta editoriale che sta dietro il lancio di questa collana? La scelta editoriale in realtà è figlia di una scelta, di un'esigenza personale, cioè la mia. Io nasco come attore all'interno della compagnia Teatro dell'Argine, ho avuto una formazione proprio come attore, lì dentro ho lavorato per tanti anni prima di cominciare con l'editoria. E quindi avevo questo bagaglio nel quale avevo imparato a sperimentare quella che è la necessità del dialogo. Voi sapete che il teatro è l'unica forma d'arte che ha bisogno di uno spettatore, quindi della messa in scena fragrante, lì, pronta, quindi un rapporto diretto. E questa cosa me lo sono portato dietro. Infatti il girovago parla del senso del viaggio, inteso non solo come spostamento fisico, ma viaggio come incontro e come scambio di punti di vista. Quindi il viaggio diventa un modo diverso di guardare anche la quotidianità. Ed è per questo che, per esempio, ho pubblicato anche libri un po' più, tra virgolette, normali, come quello di Antonella Selva, che abbiamo presentato già da voi, Cronache dalla periferia dell'impero, che però anche lì mette in comunicazione realtà molto diverse, punti di vista molto diversi, perché io credo che solo attraverso lo spiazzamento e il vedere il mondo con degli occhi diversi sia l'unico modo, l'unica possibilità che abbiamo di uscire da questi tempi molto difficili. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Prima di salutarvi, però, Lorenzo, c'erano dei ringraziamenti che volevate fare. Sì, dei ringraziamenti doverosi a, ovviamente, la compagnia Teatro dell'Argine, in particolare a Vincenzo Picone, che è stato il direttore del laboratorio Esodi insieme a Michaela Casalbone e Nicola Bonazzi, e al Mustache, che oltre a essere un locale bellissimo ci ha accolto molto molto generosamente per fare questa mostra. E ringrazio anche Simona Bodo della Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla Multietnicità, che ha scritto una prefazione molto bella e molto toccante al libro. Bene, noi ringraziamo i nostri ospiti per questa bella chiacchierata. 42 La Risposta vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko. Babylon, Saladuka. know you better understand. The right you know you better you will be safe. Babylon this is the final day. Babylon this is the final call. We'll read the right and then song the wall. Since pride and peace then, and together we fall. And if I know that, you're not gonna catch me in a rat lock. We're not gonna fall in a